Europa 24. Good morning, ladies and gentlemen. Prime Minister Letta and I just had our first meeting here in Brussels over a cappuccino and some croissant. Insomma, una diplomazia a cappuccino e brioche, come avete sentito questa mattina dalle parole dello stesso Presidente della Commissione Europea Barroso. Naturalmente, al di là delle battute, i contenuti sono quelli delicati dei nostri tempi. In primo luogo il lavoro, la crescita economica. Un saluto naturalmente da Gigi Donelli. Dunque, su questo incontro, dice Letta, torno a Roma ottimista, più di quando sono partito, ho visto come Berlino, Parigi e Bruxelles ci sia consapevolezza che ci accomuna. E Barroso si dice molto fiducioso sull'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo, non si deve anteporre il rigore alla crescita. Parole del Presidente della Commissione UE, José Manuel Barroso, che naturalmente suonano musica per le orecchie degli italiani che chiedono appunto spazi per crescere e un allentamento dei vincoli UE. A proposito di allentamenti, atteso ormai tra non molto dall'incontro dei vertici della Banca Centrale Europea una decisione sui tassi, quindi si attende un ulteriore abbassamento, un intervento che sarebbe il primo da 10 mesi e porterebbe di fatto al minimo assoluto. Tutto questo per la Banca Centrale Europea riunita a Bratislava. Vi segnalo, attraverso il sito di radio24.it potete seguire in diretta la conferenza stampa naturalmente di Mario Draghi e lì trovate il link. In occasione dell'avvio del mese europeo del cervello, la Commissione europea ha stanziato circa 150 milioni di euro per 20 nuovi progetti internazionali per la ricerca. La voce che sentite ora è quella di Robert Rennings, che è il portavoce del commissario europeo alla ricerca. Ci spiega che gli investimenti complessivi destinati dall'UE a questo settore dal 2007 ammontano quindi a 1,9 miliardi di euro, quindi quasi 2 miliardi di euro. Ecco, perché è così importante la ricerca sul cervello? Beh, un dato impressionante arriva da un'altra parte. Si stima infatti che per il 2040 14 milioni di cittadini europei saranno colpiti dall'Alzheimer. Ecco, un dato che da solo spaventa e spiega l'importanza di questi investimenti sulla ricerca. E ora cambiamo tema, rimaniamo nell'esplorazione, nella ricerca, per due notizie spaziali. Infatti, dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese, tutto è pronto per il primo lancio commerciale di Vega, il lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea, a bordo del quale c'è tanta tecnologia italiana, tant'è che il cuore del razzo è stato costruito dalle parti di Roma. Il lancio è previsto alle 23.06 del 3 maggio, quando in Italia sarà già poco prima dell'alba del 4 maggio. E ancora una notizia europea ma molto italiana riguarda l'astronauta italiano Luca Parmitano. Infatti è confermata la sua partenza a fine mese con la missione Volare alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, Parmitano non è il primo astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, ma di sicuro è il primo che ha la fortuna, l'onore di essere incaricato di una spacewalk, quindi una passeggiata spaziale lassù sospeso. Allora, Chiara Albicocca ha parlato con lui, sentiamo cosa ha detto Parmitano. Il caso ha voluto che durante la mia spedizione 36-37, o comunque l'incremento della missione Volare, fosse necessario effettuare delle manutenzioni, comunque delle attività extraveicolari particolari che non potevano essere fatte in un altro momento, per cui insieme al collega Chris Cassidy, che è un veterano della spacewalk, secondo me uno dei migliori astronauti per quanto riguarda l'attività extraveicolare, grazie alla sua presenza da veterano e anche al fatto che il mio addestramento è andato molto bene, si è pensato che potessimo costituire un team valido per fare queste attività extraveicolari, per cui ecco sono stato assegnato. Io dico sempre, non è così importante il fatto di essere il primo o il secondo, è importante acquisire una capacità per l'Italia, per l'Agenzia Spaziale Italiana, per quella europea. Sono Federico Taddia e oggi vi parlo dei MOOC, Massive Open Online Course. Si tratta di un'offerta didattica paneuropea aperta a tutti. Con il supporto della Commissione europea, le università di 11 paesi hanno unito le forze per dare a tutti la possibilità di accedere a insegnamenti di qualità senza dover lasciare il proprio domicilio. I MOOC sono infatti corsi universitari online che coprono diverse materie, dalla matematica all'economia, passando per le competenze digitali, il commercio elettronico, il cambio climatico, il patrimonio culturale, la responsabilità sociale delle imprese, il Medio Oriente moderno, l'apprendimento delle lingue e la scrittura creativa. L'iniziativa è diretta dall'Associazione Europea dell'Università per l'insegnamento a distanza. Per tutte le informazioni collegatevi al sito www.openuped.eu. E grazie allora anche a Federico Taddia, oltre naturalmente a Fabio Cantadori invece in regia. Un saluto da Gigi Donelli. Le notizie con l'Europa tornano già da oggi pomeriggio, poco dopo le 3 con GR Europa. Più tardi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.